strano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buona giornata a tutti da Mauro Meazza, ancora insieme per un'occhiata ai giornali in edicola in questa giornata di Epifania, tradizionale chiusura, tradizionale ultimo giorno delle vacanze del periodo natalizio. Cominciamo con un'occhiata alle prime pagine, cominciamo proprio dal Sole 24 Ore, che dedica il suo titolo più importante all'intervento presentato in America, negli Stati Uniti, per le misure anticrisi. Maxi tagli fiscali negli USA è il titolo più importante del Sole 24 Ore oggi in edicola. Obama punta su riduzioni di tasse per 310 miliardi di dollari e Londra prova gli ammortizzatori sociali. In Germania, leggiamo sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, in arrivo un altro piano da 50 miliardi di euro, quindi tre paesi, tre interventi in preparazione, maxi interventi in preparazione per cercare di risollevare le sorti dell'economia e in generale le condizioni economiche di tutti. Poi il titolo più importante, tra i titoli più importanti del Sole 24 Ore, l'andamento dell'inflazione nel 2008, inflazione che è record nel 2008, avverte la prima riga del titolo, ma in calo a dicembre, 2,2%. Questo dato va un po' interpretato, ma lo vedremo poi meglio nelle parti successive di questa rassegna stampa. Vi segnalo molto sinteticamente quello che viene richiamato sulla prima pagina del 24 Ore: inflazione ancora in forte calo nell'ultimo mese del 2008, secondo la stima Istat, grazie a una flessione mensile dei prezzi al consumo dello 0,1%, il tasso tendenziale annuo è sceso dal 2,7 registrato a novembre, ma nel complesso del 2008 la media è stata pari al 3,3%. Si conferma intanto, avverte sempre il Sole 24 Ore, il buon trend dei consumi. Secondo le imprese, i saldi porteranno benefici alla filiera della moda. Questi alcuni dei titoli sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo altre prime pagine, cominciamo dalla stampa. Naturalmente la guerra a Gaza occupa sempre ampio spazio su tutte le prime pagine dei giornali. Anche la stampa decide di dedicare il suo primo titolo in alto a Gaza: inferno nel cuore di Gaza, battaglia tra le case, decine i civili morti, e Israele e Mubarak dicono no al piano UE. Ma anche nella prima pagina della stampa il titolo maggiore, il titolo più evidente, è dedicato al piano statunitense. Tasse, il maxi taglio di Obama, sconto da 310 miliardi di dollari e 600.000 assunzioni. Brunetta, il ministro Renato Brunetta, intervistato dal quotidiano torinese, dice: ma prima di tutto permettiamo alle donne di lavorare di più, quindi una sorta di chiusura sulle misure di tipo fiscale, almeno per quanto riguarda il parere del ministro Brunetta, e invece l'invito a utilizzare diversamente altre forme di incentivazione. Lo spiega poi in una intervista nelle pagine interne, sempre sulla stampa. Il Corriere della Sera ugualmente dedica il suo titolo più importante alla battaglia nelle strade di Gaza City. Il presidente francese Sarkozy e la missione UE chiedono la tregua, ma c'è il no della Livni. Scontri fra le truppe di Israele e gli uomini di Hamas, lo Stato ebraico dichiara uccisi 100 miliziani. Sul Corriere della Sera in evidenza anche la polemica di cui abbiamo parlato ieri, una polemica innescata dal giornale. Il giornale aveva segnalato con una grande foto in prima pagina e un editoriale il problema dei musulmani che si sono recati a pregare in modo anche un po' irrituale, anche senza autorizzazione, come si direbbe in modo burocratico, sulle piazze di Milano e di Bologna. E infatti sul Corriere della Sera viene ripresa questa polemica, il Vaticano turbati da quella piazza. Il cardinale Renato Martino, che è stato raggiunto da Gian Guido Vecchi, dice: la gente che prega fa sempre bene, però. Il cardinale Renato Martino esprime in quel però il disagio della Chiesa per le immagini dei musulmani in preghiera in Piazza Duomo a Milano e a San Petronio a Bologna dopo le manifestazioni anti-israeliane. Vedremo Poi come il giornale, che è stato un po' l'iniziatore di questo dibattito, prosegue sul tema. Sempre dal Corriere della Sera, il problema interno alla maggioranza di governo, il problema Malpensa, sfida di Bossi a Berlusconi, per Alitalia voglio Lufthansa, asse tra i big del Carroccio e la Moratti. Quindi sul futuro di Alitalia e sul futuro poi di Malpensa si sta innescando una battaglia politica molto importante. Vediamo il giornale che apre con un titolo dedicato a Di Pietro, e ora Di Pietro insulta il giornale. Sul sito ufficiale del partito il direttore di questo quotidiano definito un paranoico pericoloso, quindi una polemica tra il giornale e Antonio Di Pietro. Ma sempre in prima pagina una colonna sulla destra riassume il cosiddetto caso Milano, così lo definisce il giornale, la polemica, ma che errore il silenzio di Tettamanzi, l'intervista a Socci, gli islamici dovevano avere molto più rispetto, e un commento affidato a Gianni Baget Bozzo, quella piazza metafora della loro identità. Allora, restiamo su questa vicenda della piazza del Duomo e dei musulmani, richiamata in prima pagina da Avvenire quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Il primo titolo è dedicato alla battaglia di Gaza, battaglia nel cuore di Gaza, scontri strada per strada nella striscia, il ministro Livni alla UE, nessun accordo con i terroristi, nuovo appello del Papa all'Angelus. Anche per Avvenire è in evidenza lo scontro su Malpensa, all'Italia scontro su Malpensa, domani vertice tra Berlusconi e Bossi, ma in seconda pagina, la pagina che Avvenire dedica abitualmente ai commenti, c'è un commento affidato a Davide Rondoni intitolato «No ad atti dimostrativi, sì a gesti di coscienza», proprio sulla questione degli islamici in preghiera nelle nostre piazze. L'uomo che prega, è il richiamo di prima pagina, riconosce che il rapporto con la vita, senza rapporto con il mistero, perde gusto e intelligenza. Quindi un'apertura in certo qual modo al gesto della preghiera da parte di Avvenire. Dal Messaggero ancora il titolo più importante per Gaza, battaglia nel cuore di Gaza, spazio alla nuova giunta a Napoli, Napoli bufera sulla Iervolino, e le critiche di D'Alema, le perplessità di D'Alema, il partito non decolla, serve un cambiamento. Il Messaggero segnala anche in prima pagina il passaggio che si attende tra domani e domani l'altro finale per le norme urgenti dedicate all'università, il cosiddetto decreto Gelmini sull'università. Stop agli scatti se il professore non fa ricerca, questo è il titolo del Messaggero, è uno dei contenuti di questo decreto legge che deve essere appunto definitivamente convertito entro questa settimana. Ieri il governo ha deciso di porre la fiducia. Repubblica ugualmente dedica gran parte della sua prima pagina a Gaza, si combatte nel cuore di Gaza, battaglia casa per casa, l'Europa chiede una tregua no di Israele, questo è il riassunto del titolo di Repubblica, e anche per Repubblica la questione di Napoli, Napoli scontro nel Partito Democratico sulla nuova giunta. Titolo diverso da altri quotidiani, dedicato alle maestre di Rignano, le maestre di Rignano ora rischiano il processo, ricorderete era il caso dei presunti abusi sessuali nella scuola. La materna di Rignano Flaminio, la procura avverte Repubblica, è pronta a chiedere i primi rinvii a giudizio. Libero ugualmente dedica la sua apertura, il suo titolo più importante, alla guerra, ma con una lettura un po' diversa. Chi vuole la guerra? Hamas, finanziata dall'Iran, che vuole distruggere lo Stato ebraico, la Stella di Davide difende se stessa e l'Occidente, ma la sinistra italiana ed europea sta dall'altra parte, quindi un motivo di polemica. Ma ora ci fermiamo un istante per il GR. Stampa Belletta, la stampa. Bentornati alla nostra rassegna stampa. Stavamo vedendo dalle prime pagine gli argomenti di maggiore rilievo. Naturalmente la guerra nella striscia di Gaza è tra gli argomenti che i giornali hanno deciso di privilegiare anche per l'edizione di oggi. Dalla prima pagina di Libero avevamo visto questo titolo: Chi vuole la guerra, le ragioni di Israele, quindi una lettura in qualche modo più italiana delle vicende di guerra a Gaza. Allora vale la pena di esaminare due giornali più apertamente schierati, diciamo legati direttamente a forze politiche. La Padania diretta da Umberto Bossi, perché riassume due dei temi caldi in qualche modo. Bossi: Lufthansa è il nostro partner, quindi si conferma lo strappo interno alla maggioranza. Dalla Lega, dice il quotidiano diretto da Bossi, la linea della fermezza, l'hub si salva solo con i tedeschi. Domani Bossi incontra a Roma il premier, il sindaco Moratti al Senatur, il fronte del nord è più combattivo che mai, voliamo con chi difende sviluppo e competitività. E una intervista al sindaco Moratti viene significativamente intitolata «Il network francese è troppo piccolo». Nella parte bassa della prima pagina della Padania, l'altra questione calda, diciamo così, la questione della preghiera dei musulmani nelle piazze di Milano e di Bologna, un titolo polemico, come in pieno stile, verrebbe da dire, della Padania: si avvera la profezia della Lega, moschee a cielo aperto. E c'è la proposta di questo fotomontaggio che viene dal 2004, avverte la Padania, in cui si vedevano appunto dei musulmani inginocchiati davanti alla facciata del Duomo, messa poi a confronto con la foto invece scattata realmente, avvenuta realmente dei giorni scorsi, in cui le manifestazioni anti-Israele poi si sono concluse con questa preghiera di massa sulla piazza del Duomo a Milano. Dalla Padania a Liberazione si autodefinisce appunto giornale comunista, privilegia assolutamente la questione della guerra. Anche qui la lettura è una lettura affatto per nulla filo-israeliana. Si segnala appunto nel titolo che campeggia su una grande foto riporta l'esplosione di una bomba. Armi di distruzione di massa. Secondo il Times, a Gaza sono state usate le vietate bombe al fosforo, i morti sono più di 500. In cima alla testata del giornale, nella parte alta della pagina, una citazione di Adenauer: all'intelligenza Dio ha posto limiti, alla stupidità no. E più sotto invece, nella parte bassa, sempre la prima pagina di Liberazione, che quindi dà questa lettura molto forte, molto critica dell'azione militare israeliana, una poesia di Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish è considerato il massimo poeta palestinese ed è morto un anno fa. Poesia scritta nel 2002 e intitolata Stato d'assedio. La poesia comincia appunto nella parte bassa della prima pagina e poi prosegue nella ultima pagina, la pagina 20 di Liberazione, e racconta appunto questo stato d'assedio fisico ma anche spirituale del popolo palestinese. Quindi due letture assolutamente antitetiche, ovviamente, della guerra: da una parte su Libero, che riporta appunto le ragioni di Israele, dall'altra quella di Liberazione. Chiudiamo il nostro sguardo alle prime pagine con il giorno dedica il suo titolo maggiore al maltempo. Epifania sotto la neve, la protezione civile invita a rientrare subito, trappola di ghiaccio è il titolo, gelo in mezza Italia, meno 30 nell'Aquilano, catene a bordo e bevande calde per chi viaggia, operazione soccorso clochard a Milano e a Roma. Tra gli altri titoli in evidenza sul giorno, la questione di Malpensa, la Lega, Lufthansa oppure liberate gli slot, e ancora l'inflazione che avevamo visto già sul Sole 24 Ore. E alla fine la Gazzetta dello Sport con un titolo: era ora, si rigioca, perché ci sono oggi alle 16 e alle 18 gli incontri che riguardano il Milan e la Juventus. Juve a Messina contro il Monaco, ritrova Buffon dopo 3 mesi, e Milan nel deserto con l'Amburgo, l'esordio di Beckham, forse esordio appunto di David Beckham, che atteso per oggi dal primo minuto in campo, invece sembra venire rinviato per un problema muscolare che affligge il campione inglese. Allora, ritorniamo su alcuni dei temi che abbiamo visto in evidenza nelle prime pagine. Riprendiamo dal Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, come abbiamo detto, analizza attentamente la questione dell'inflazione, questa inflazione che segna contemporaneamente un record per quanto riguarda l'andamento dei 12 mesi e un calo per quanto riguarda invece il mese su mese a dicembre. Ce lo spiega Rossella Bocciarelli a pagina 3. Ancora in calo l'inflazione nell'ultimo mese nel 2008, secondo la stima preliminare dell'Istat, il dato definitivo sarà diffuso il 15 di gennaio, a dicembre si è registrato un 2,2% tendenziale contro il 2,7% di novembre, ma intanto il 2008 viene archiviato come l'anno in cui la corsa dei prezzi è stata più impetuosa, raggiungendo un livello che non si registrava da 12 anni, il 3,3% medio. Infatti, rappresenta un massimo dal 1996 e comporta una crescita dell'1,5% rispetto al 2007. Allora, ma andiamo a vedere un po' come sono andati i singoli comparti, anche per vedere se nella nostra esperienza di spesa quotidiana ci ritroviamo in queste stime dell'Istat. Segnala Bocciarelli, gli incrementi tendenziali più elevati si sono registrati nei capitoli abitazione, acqua, elettricità e combustibili, bevande alcoliche e tabacchi, prodotti alimentari. Secondo Coldiretti, la pasta è il prodotto che ha fatto registrare l'aumento di prezzo record nel 2008, più 10% su base annua, più 28% a dicembre. Però, dice sempre Coldiretti, i primi segnali positivi arrivano dal comparto alimentari, soprattutto per il rallentamento della corsa di pane e cereali. Una intervista a Alberto Maiocchi, presidente dell'ISAE, sempre sulla terza pagina del Sole 24 Ore di oggi, cerca di spiegare quali possono essere gli effetti dell'inflazione di questi primi numeri riferiti al 2008. Intervista sempre affidata a Rossella Bocciarelli, che chiede al professor Maiocchi come si spiega questa duplice realtà descritta dai numeri Istat, ovvero come fa a stare insieme la più alta inflazione degli ultimi 10 anni con la notizia dei prezzi in picchiata. Risposta di Maiocchi è semplice. Nei primi mesi del 2008 si è accumulata una forte carica inflazionistica, dovuta soprattutto all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e in particolare del petrolio, spinta che si è andata sempre più attenuando nell'ultimo periodo. Quindi, se noi misuriamo il tasso di inflazione sulle tendenze degli ultimi mesi, descriviamo una realtà completamente diversa. Per esempio, noi dell'ISAE avevamo stimato che sulla dinamica dei prezzi di dicembre, in rapporto a novembre, il calo dei prezzi del petrolio avrebbe portato a un calo di 0,2 punti. Poi nella realtà la riduzione è stata di 0,1 perché altri prodotti sono scesi meno del previsto. Quindi un 2008 che ha avuto due facce, una prima fase di forte crescita, una fase invece di forte frenata nella sua parte finale. Il risultato complessivo è questo contrasto di numeri tra l'andamento annuale e l'andamento mensile. Restiamo sul Sole 24 Ore, qualche indicazione in più sul piano deciso da Obama, Barack Obama, che tra pochi giorni prenderà ufficialmente il suo posto di presidente degli Stati Uniti, ha annunciato questi 300 miliardi di sgravi fiscali. Nel piano di stimoli all'economia previsti tagli alla classe media e alle imprese. Ci racconta Marco Valsania da New York, il pacchetto per individui e famiglie tra i 150 e i 200 miliardi si concentrerà sul sostegno ai redditi meno elevati attraverso tagli delle imposte pagate dai lavoratori. Alle imprese, al costo di oltre 100 miliardi, la possibilità di dedurre perdite e inoltre incentivi a investimenti e assunzioni, mentre ci saranno disincentivi per i licenziamenti. Più in dettaglio, nel piano Obama gli americani dovrebbero avvantaggiarsi di tagli alle imposte pari a $500 per persona e 1000 per famiglia. Da definire resta il tetto massimo del reddito per averne diritto. Nel corso della campagna elettorale il presidente eletto aveva suggerito i $200,000. Gran parte dei tagli potrebbero materializzarsi, invece che con assegni di rimborso, attraverso riduzioni delle trattenute fiscali automatiche sugli stipendi. Per quanto riguarda le aziende, potranno tener conto fin da subito di passivi sofferti nel 2008 e nel 2009 per ridurre la loro esposizione al fisco, anche relativa ai 5 anni precedenti, e chiedere rimborsi. Inoltre le imprese verranno premiate per nuovi investimenti a partire dal 1 gennaio del 2009. Ci sarà poi un altro provvedimento ancora, spiega Valsania, che garantirà crediti d'imposta per un anno alle società che decidono nuove assunzioni. Ci sono misure anche per le piccole imprese con un ampliamento del ventaglio delle spese deducibili fino a $250,000, il tetto attuale è 175,000. Obama resiste invece alla richiesta di estendere incentivi alle imprese che non hanno dovuto pagare tasse, e queste comprenderebbero società in grave crisi quali le aziende automobilistiche. Quindi una scelta che sembra più mirata su un intervento di tipo generale, meno invece su alcune particolari imprese, quella che si descrive sul Sole 24 Ore relativamente al piano Obama. Restiamo sul Sole 24 Ore per un'altra vicenda che interessa un po' tutti, la questione dei mutui. Come sapete, c'è una misura che prevede il tetto massimo dei mutui al 4% in quanto riguarda gli interessi. Ieri il Sole 24 Ore è riuscito a ottenere le istruzioni che il Ministero dell'Economia ha diramato alle banche, appunto perché rispettino questo tetto degli interessi al 4% per i mutui erogati per la prima casa. Le istruzioni sono riportate oggi sul 24 Ore a pagina 21, l'articolo principale di questa pagina affidato a Maximilian Cellino, che spiega che questa disposizione è in teoria già efficace per tutte le rate che sono in scadenza dal 1 gennaio. Nella pratica, avverte Cellino, ed è la posizione appunto che viene segnalata al Ministero dell'Economia, è probabile che in questi giorni i risparmiatori si vedano addebitare sul conto corrente l'importo originario, quindi applicando un tasso superiore a questo tetto del 4%, senza traccia ancora del contributo dello Stato previsto dal decreto legge anticrisi. Questo perché l'applicazione del decreto, che peraltro è ancora suscettibile di modifiche perché ancora deve essere definitivamente convertito in Parlamento, l'applicazione del decreto da parte delle banche incontra una serie di difficoltà di carattere organizzativo. Tuttavia i risparmiatori non avranno niente da temere, perché lo sconto, quando è dovuto, arriverà ugualmente. Il mutuatario, spiega la circolare, spiegano dal Ministero dell'Economia, deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. Quindi la circolare fissa a fine febbraio il lasso di tempo definito ragionevole entro il quale gli istituti di credito dovranno adeguarsi alle nuove norme. Ci sono insomma 2 mesi di tempo, i primi 2 mesi le banche potranno anche sforare temporaneamente, perché poi, ripeto, questo importo dovrà essere restituito dal tetto del 4%, dopodiché da marzo non saranno più ammessi sforamenti. Ci fermiamo un istante per le previsioni del tempo. È la stampa, Belletta, la stampa. Bentornati alla nostra rassegna stampa. Naturalmente non si trattava delle previsioni meteo, quelle per le quali ci siamo fermati, ma delle condizioni del traffico. In realtà, come avete poi sentito, le due cose oggi sono strettamente legate, perché le condizioni meteo stanno pesantemente vincolando anche la mobilità e lo stato delle strade. Appunto, restate con noi per gli aggiornamenti che Radio 24 vi propone sulle condizioni delle strade, che oggi sono così legate alle condizioni meteo. Parlavamo dei mutui al 4%, segnalato dal Sole 24 Ore, queste indicazioni che vengono dal Ministero dell'Economia per le banche. In sostanza l'economia dice alle banche: il tetto del 4% degli interessi per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile va assolutamente applicato da subito, ci sono però 2 mesi di tolleranza per adeguarsi, dopo i quali non ci sarà più alcun margine, dovrà essere semplicemente applicato il tetto. Trovate tutte le istruzioni sul Sole 24 Ore oggi in edicola, le istruzioni appunto diramate dall'economia. E infine dal Sole 24 Ore ancora una notizia riguarda la Apple e riguarda lo stato di salute di Steve Jobs, il Chief Executive Office dell'Apple. Jobs dice: resto al timone di Apple. Jobs ha tranquillizzato sui suoi problemi di salute e ha confermato la leadership. C'erano tensioni appunto per quanto riguardava lo stato di salute di Jobs, si parlava anche di un suo possibile passaggio di testimone, cosa che è stata smentita ieri dallo stesso Jobs. La borsa, come avverte il Sole 24 Ore di oggi, plaude, ma aspetta comunque l'indicazione di un successore. Allora, veniamo un po' ad altri temi invece presenti sui giornali di oggi. Come abbiamo visto dalla prima pagina del Messaggero, si è ripresa l'attività parlamentare con la richiesta del voto di fiducia sulle misure urgenti che riguardano l'università e la ricerca. I contenuti di questo decreto legge, che ha oramai assunto una sua fisionomia pressoché definitiva, sono riassunti poi nelle pagine interne del Quotidiano di Roma. Stop agli scatti di stipendio se il prof non fa ricerca, è la rivoluzione del decreto legge che è atteso al voto finale della Camera. Senza le pubblicazioni sarà dimezzato l'incremento in busta paga. E ancora, tra le misure, la ricerca di maggiore trasparenza nei concorsi e le commissioni d'esame con il sorteggio, poi la comparsa di parametri oggettivi o ulteriori parametri oggettivi, viene da dire, per valutare l'attività. Inoltre ci sono premi agli atenei migliori e sanzioni per chi ha i conti in rosso. Questa è la cura Gelmini, varata appunto con questo decreto legge, che attende il voto finale tra domani e domani l'altro per essere appunto definitivamente convertito in legge. I suoi temi principali sono riassunti da Anna Maria Sersale sul Messaggero. Da Repubblica, su Repubblica ugualmente si parla di università, ma è un altro il tema di cui si occupa l'altro quotidiano romano, gli sprechi in Ateneo. Questo Il lavoro di Salvo Intravaia, proposto oggi da Repubblica: ripetenti e fuori corso bruciano 4 miliardi. L'Ocse avverte: così i ritardatari pesano sulla collettività. La dispersione viene riassunta anche da una serie di tabelle che vengono presentate appunto su Repubblica. Ci sono 736.711 alunni fuori corso o ripetenti, e il costo di uno studente italiano è di 5.451 euro all'anno. Si arriva così a questi 4 miliardi appunto del titolo: ripetenti e fuori corso bruciano 4 miliardi. Il costo per studente in euro viene calcolato stimando le sue entrate contributive 726 euro e il totale di entrate contributive 1,5 miliardi annuo. Il lavoro di Repubblica appunto, che avverte sui ritardi di laurea: il 30% in particolare degli studenti italiani universitari si laurea con un anno di ritardo, il 29% con 2 o 3 anni di ritardo. Contro questi ritardi, come ricorderete, sono state varate diverse misure negli anni. Non pare, dal lavoro che viene presentato appunto da Intravaia su Repubblica, che la cura abbia sortito ancora forti effetti, quindi molto resta da fare. Queste misure contenute alla Camera sono più che altro però dedicate all'organizzazione universitaria interna alle università e meno, diciamo, a quello che riguarda l'organizzazione dei singoli studenti. Restiamo sulle questioni universitarie, perché La Stampa riprende un articolo del Guardian. Brutti voti, è tutta colpa del prof. Il governo inglese assolve chi non studia. Normale distrarsi se la lezione è noiosa. Se le lezioni non sono interessanti o se il docente non è in grado di renderle tali, l'allievo si annoia e il suo profitto inevitabilmente sarà scadente. Se legassimo i dati dei fuoricorso a questa posizione del governo inglese, dovremmo ricavare che c'è appunto una difficoltà nel rendere interessanti le materie. Ma leggiamo ancora dalla Stampa: non c'era bisogno di una importante ricerca per capire questo. Il Ministero dell'Istruzione l'ha comunque voluta fare, Ministero dell'Istruzione inglese, ripetiamo, non solo per dare rigore scientifico a questa intuibile verità, ma soprattutto per passare alle vie di fatto nei confronti degli insegnanti. I presidi, dice una circolare, verifichino che i docenti si impegnino di più sul metodo e sulla qualità della comunicazione. L'Italia ha un collaudato sistema di valutazione del servizio scolastico, quindi i professori sanno bene che questa circolare non può essere disattesa senza conseguenze per la loro carriera. La notizia viene appunto dal Guardian, è ripresa dalla Stampa, viene spiegata dal capo degli ispettori scolastici, Christine Gilbert, che segnala appunto la correlazione tra la noia e i risultati accademici. E naturalmente gli insegnanti inglesi non l'hanno presa benissimo, riassume appunto la Stampa: da un po' di tempo noi docenti siamo considerati responsabili di qualsiasi problema, e questo è diciamo il punto del dilemma, se sia un problema dell'insegnante noioso o magari di poca anche volontà da parte dello studente. Sempre dalla Stampa una cosa curiosa: la comunità italiana a Barcellona. Due pagine interne del quotidiano torinese segnalano che è sulle Ramblas la terra promessa dei giovani italiani. Poca burocrazia, molte possibilità e prezzi accessibili. La nostra, la comunità italiana, è diventata la seconda comunità di Barcellona. Ci sono, avvertono delle tabelle in queste due pagine, oltre 21.000 persone di nazionalità italiana a Barcellona, ed è la seconda comunità di stranieri, la prima è quella costituita dagli ecuadoregni, sono 23.000, quindi 23.000 ecuadoregni, 21.000 gli italiani. Complessivamente nella provincia di Barcellona vivono 35.000 italiani, vivono e lavorano, viene da integrare, perché è più facile in qualche modo avere rapporti con l'amministrazione. Si avverte che per ottenere la residenza bastano solo 3 documenti e una giornata di attesa, l'affitto è più abbordabile. Secondo la Stampa in media 400 euro per una stanza confortevole, la sanità è comunque garantita con qualche decina di euro al mese dall'assicurazione e i trasporti sembrano funzionare, quindi insomma Barcellona sicuramente attraente per la comunità italiana, ma non solo, i giovani italiani la scelgono, avverte la Stampa, per lavorare. C'è una prima pagina di cui non abbiamo parlato nella prima parte della nostra rassegna, ma che comunque è cambiata in modo radicale, in modo importante. Si tratta del New York Times. Per la prima volta il New York Times riporta sulla prima pagina, sulla sua prima pagina, un'inserzione. Come segnala la Stampa, ma la questione è poi avvertita da molti quotidiani oggi, nell'editoria USA cade un altro piccolo tabù. La pubblicità ha fatto la sua comparsa sulla prima pagina del New York Times, finora immune da tutto ciò che non fosse una notizia degna di essere pubblicata, appunto il motto del New York Times. Il più prestigioso quotidiano americano, in profonda crisi per il crollo delle copie vendute e quindi degli introiti pubblicitari, ha pubblicato ieri il primo banner nel taglio basso, è un'inserzione della rete CBS. Il New York Times è stato costretto recentemente a ipotecare anche la nuova sede e non ha rivelato a quanto questo spazio sia stato venduto, ma l'estrema visibilità e la novità, secondo gli esperti, rende molto efficace questo posizionamento sulla prima pagina del New York Times, quindi più costoso di un'intera pagina all'interno. Il quotidiano, è la conclusione della corrispondenza della Stampa, è una delle ultime testate che finora resisteva alle lusinghe dei pubblicitari, mentre il Wall Street Journal e il USA Today, dall'alto del 2 milioni di copie medie, sono da anni meno snob. Bene, e con questa segnalazione di questa modifica importante per la prima pagina del New York Times, la nostra rassegna stampa si conclude. Io ringrazio Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia e vi do appuntamento a domani.